figlio dopo 15 anni lavorando in varie aziende e diciamo subendo una serie di orari e abitudini che secondo me sono ormai un po' sorpassati dalla tecnologia, insieme ad altri soci abbiamo fondato Piano C, che è l'idea di consentire la flessibilità attraverso alcuni spazi di lavoro pensati in modo diverso, che mettono insieme un'area di co-working, una serie di servizi come per esempio se serve il baby parking, formazione, servizi salvatempo e opportunità di stare insieme, di fare community e quindi di sfruttare sinergie professionali sia per imprenditrici che per libere professioniste e anche per dipendenti d'azienda. E il primo piano C, che è aperto a Milano 2 mesi fa, è dedicato a tutte le donne, mamme o non mamme, mentre gli uomini possono entrare solo se hanno dei bambini. In questo caso, Riccarda, che tipologia di società ha fondato? È un SRL, perché siamo partiti, venendo io dal mondo aziendale, anche i miei soci in realtà veniamo insomma da un mondo in cui siamo abituati a prenderci delle responsabilità anche economiche, quindi abbiamo fatto subito un SRL e non so se riusciremo realmente a rientrare poi nel registro delle start-up, perché le tre caratteristiche che richiede, nonostante noi siamo chiaramente innovativi, tant'è vero che abbiamo appena vinto il premio della Banca Europea per gli investimenti come miglior progetto di innovazione sociale in Europa nel 2012, però non abbiamo effettivamente un 20% di spese ricerca e sviluppo, non abbiamo ancora un terzo dei dipendenti comunque legati all'ambito della ricerca e non abbiamo brevetti. Quindi è un punto di domanda se effettivamente rientriamo nel concetto di startup così definito. Ecco, quindi Riccarda, lei ci ha già messo anche su un piatto d'argento, ci ha offerto tutte quelle problematicità che magari stanno affrontando adesso, come dire, situazioni imprenditoriali piccole come la sua, che cercano di capire se hanno tutti i requisiti per poter ottenere questa iscrizione e le agevolazioni che ne seguiranno.